ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Buongiorno a tutti, da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano. Their stories also reveal a lot about the state of our world and the state of our union. They show the power of humanity and they expose to us the fragility all around us. Un virus di migliaia di volte più piccolo di un chicco di grano ci fa capire quanto la vita possa essere delicata. È uno dei passaggi probabilmente più emotivi, più intensi del primo discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il lavoro, l'economia da una parte, la situazione sanitaria dall'altra, con il coronavirus a fare da filo conduttore e la transizione verde come pilastro della ripartenza europea, senza dimenticare la lotta alle discriminazioni, la tutela dei diritti, la questione migranti, con un annuncio importante in cui von der Leyen dice aboliremo il regolamento di Dublino. Von der Leyen annuncia anche che con il presidente del Consiglio italiano Conte e la presidenza italiana del G20 sarà l'occasione per organizzare dunque nel 2021 un vertice globale sulla sanità in Italia. E già ieri Milano e Bergamo si sono candidate ad ospitarlo. L'Europa, ha aggiunto, deve dimostrare che c'è per proteggere i cittadini, ha ribadito la Presidente, a sua volta vicinissima ad Angela Merkel, in passato più volte ministra della Cancelliera. Deve farlo sul fronte sanitario, ma anche oggi sul tema del lavoro. Possiamo auspicare che l'economia si riprenda dopo una caduta del PIL del 12%, ma il virus permane ancora, come l'incertezza qui in Europa e in tutto il mondo. Quindi questo non è assolutamente il momento di far mancare il supporto. L'economia necessita di una politica di continuo sostegno. Occorre un equilibrio fra la garanzia di sostegno finanziario e la sostenibilità dei bilanci. And ensuring fiscal sustainability. Tutti nell'Unione devono poter accedere al salario minimo. Questo è uno dei passaggi forse più politici del discorso, ha aggiunto funzionano ed è giunto il momento che il lavoro ripaghi. Questo naturalmente all'Eurocamera. Per la ripartenza dell'Europa, ha detto dunque, c'è il Recovery Fund, che però deve avere degli obiettivi con uno sguardo al clima. E per questo il 37% di Next Generation EU, che poi è il nome lungo di quello che noi chiamiamo Recovery Fund, sarà speso per obiettivi del Green Deal. But the mission of the European Green Deal. La missione del Green Deal europeo comprende molto più che un taglio delle emissioni. Questo è importante. Riguarda il produrre sistematiche modernizzazioni nell'economia, nella società e nelle industrie. Si tratta di creare un mondo più forte in cui vivere. Riguarda i nostri consumi, le nostre materie prime, energia, acqua, cibo. Non è più sostenibile. Dobbiamo cambiare la nostra natura, come produciamo e come consumiamo, come viviamo e come lavoriamo, come mangiamo, viaggiamo e trasportiamo. Noi affronteremo ogni cosa, dagli agenti chimici fino alla deforestazione e all'inquinamento. Questo è il piano per il giusto recovery. È un piano di investimento per l'Europa. È così che Next Generation EU farà davvero la differenza. In primo luogo, il 37% di Next Generation EU sarà speso per i nostri obiettivi del Green Deal europeo. On our European Green Deal objectives. D'altra parte si chiama Next Generation, quindi ha uno sguardo lontano, un programma evidentemente molto ambizioso, staremo a vedere, adesso inizia il faticoso lavoro del metterlo in pratica. Lunedì, quindi dopodomani, è previsto alla Commissione europea, dunque a Bruxelles, un incontro tra Ursula von der Leyen, la cancelliera Angela Merkel, che attualmente, lo ricordo, è presidente di turno dell'Unione europea, e il presidente invece del Parlamento David Sassoli, diciamo, per l'avanzamento di questi complicati lavori. Presidenza di turno, dunque, presidente della Commissione, prima economia europea, la Germania. Germania, tanto più ora che il Regno Unito ha scelto di seguire altre rotte, che con la Francia e l'Italia arrivano a rappresentare 210 dei 420 milioni di cittadini dei 27 Stati membri. Germania che risulta evidentemente decisiva per il suo ruolo, la sua storia, la sua forza. Questa settimana è stata, come dire, la Germania in Italia con la visita al presidente Mattarella del presidente della Repubblica Federale Frank-Walter Steinmeier. Allora partiamo dalla cronaca. Bisogna restare vigili. Abbiamo di fronte a noi un percorso che speriamo si concluda in fretta, ma dobbiamo approcciarci a un futuro che ci interpella su prospettive di ripresa. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinforza ancora i messaggi nell'incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica Federale Tedesca Frank-Walter Steinmeier. Da Milano, sottolinea Mattarella, parte un forte messaggio di integrazione europea. Non vede solo uniti i due paesi per combattere il coronavirus, ma anche per rilanciare l'Europa sul fronte migranti, per trovare, come invita Steinmeier, una sistemazione dignitosa. Come su quello economico. La posizione della Germania è stata decisiva per dar vita a quello che è diventato il Recovery Fund. I due capi di Stato hanno lanciato anche un premio incontrando i sindaci delle città gemellate italo-tedesche. Segno della solidarietà tra i due paesi anche l'incontro con alcuni degli ex pazienti di Covid-19 dei 44 soccorsi dalla Germania. Tra loro il primo ricoverato, Felice Perani di Bergamo. È come avere avuto una seconda mamma, cioè la prima mamma naturale, la seconda putativa della Germania. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 400 le città gemellate, molte sono di lungo periodo, ne abbiamo parlato anche di questo con Viktor Elbling, che è l'ambasciatore tedesco a Roma. Sì, diciamo che questi gemellaggi sono stati costruiti dopo la Seconda Guerra Mondiale in modo graduale e sono un'espressione della vicinanza della società civile della Germania e dell'Italia. E anche qui c'è una vicinanza naturalmente economica tra comuni dove aziende, manifatturiere delle due parti sono vicini, cooperano e sono integrate. Io direi che è un po' una riflessione o un riflesso generale della cooperazione delle società civili tra i due paesi, ma l'economia nella nostra cooperazione, le aziende e l'industria giocano sempre un ruolo preminente, questo è chiarissimo. Ambasciatore, la pandemia che cambia l'Europa è stata titolata tra l'altro in questo modo, un cambiamento tra difficoltà e però grandi possibilità, lei condivide questo approccio? Sì, l'Europa è sempre cresciuta nelle crisi e questa è una crisi che ci dà la possibilità di trasformarci, di investire nel futuro, nelle prossime generazioni, e se siamo in grado di fare questi investimenti in Europa in modo sostenibile, io sono convinto che avremo un'Europa più sovrana, più forte, più solidale, più sociale. Allora penso che è davvero una grande opportunità, abbiamo grandi mezzi anche finanziari che ci siamo dati e adesso si tratta di spenderli bene e di investire in questo futuro comune che abbiamo. La Germania e noi. Sentiamo Attilio Geroni, responsabile degli esteri del Sole 24 Ore. Italia e Germania continuano a conoscersi e disconoscersi soprattutto per approssimazioni e luoghi comuni. Negli ultimi anni la retorica sovranista e populista ha accentuato il lato oscuro, polemico e rivendicativo delle relazioni bilaterali. Il presidente della Repubblica Federale Tedesca Frank-Walter Steinmeier, che nei giorni scorsi ha incontrato in Italia Sergio Mattarella, incarna molto bene il cambiamento di paradigma che la crisi del Covid-19 ha imposto alla classe dirigente della Germania e anche ad ampi strati della società. Socialdemocratico, ex vice cancelliere ed ex ministro degli esteri, Steinmeier rappresenta assieme ad altri esponenti governativi, come il ministro delle finanze Olaf Scholz, l'inizio della fine del pensiero unico tedesco sull'ortodossia di bilancio e sulla scarsa propensione alla condivisione del rischio. Ne è venuta fuori, grazie anche alla capacità di sintesi politica della cancelliera Angela Merkel, una solidarietà delle cose umanamente possibili, sintetizzata nel progetto franco-tedesco del Recovery Fund da 750 miliardi. una solidarietà figlia della consapevolezza che la tenuta del mercato unico e della moneta unica sarebbero state messe a dura prova con l'ampliarsi delle divergenze macroeconomiche tra partner europei e che ciò avrebbe creato un inevitabile cortocircuito con la stessa Germania. Attilio Geroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grazie anche ad Attilio Geroni. Adesso, tra un momento, dopo gli aggiornamenti sempre utili per chi è in viaggio sulle strade italiane, ripartiamo dal complicato, da qualche giorno più che mai, rapporto tra Bruxelles e Londra. Essere, non essere. Qui sta il problema. Cosa andare a vedere nel weekend? Cosa arriva nella nostra città? No, per l'idea dell'Ave! Non sarà mai che i miei figli io lascio l'oltraggio dei miei nemici. Quali sono le prime più importanti? Siamo qua in cerca d'un autore. Cartellone, il rotocalco settimanale sul teatro, seleziona gli spettacoli migliori con interviste ad attori e registi. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.15 su Radio 24, oppure mi potete riascoltare su podcast, una tournée radiofonica per sognare in tutti i teatri d'Italia. Europa, Europa. Sono passati ormai più di 4 anni, 50 mesi da quel 23 giugno del 2016, quando la popolazione britannica si è espressa attraverso un referendum chiedendo l'uscita del Regno Unito, appunto, dall'Unione Europea. Ora, il periodo successivo si è trattato, come capita nelle separazioni e nei divorzi, poi di definire i termini, e le faccende in questo caso sappiamo si complicano maledettamente. Allora sembrava risolta fino a qualche giorno fa, quando Boris Johnson ha denunciato l'accordo che lui stesso ha negoziato, aprendo un nuovo fronte di crisi. Allora abbiamo chiesto aiuto a una collega che è irlandese, quindi di Dublino, della Repubblica d'Irlanda, corrispondente da Bruxelles ma con un passato di corrispondente a Londra, lavora per The Irish Times, che è di fatto il più storico, il più antico quotidiano irlandese, 1856, insomma una storia davvero straordinaria, partendo da come gli irlandesi abbiano vissuto questo cambio improvviso di direzione di Boris Johnson. Allora, grazie di essere con noi, è Naomi O'Leary. Allora, devo dire che a Dublino la reazione a questi eventi è stato di tristezza, anche di irritazione, perché questo accordo, l'accordo dell'anno scorso, è stato approvato, non solo approvato dal Parlamento a Londra, ma è stato negoziato dal primo ministro Boris Johnson, lui stesso. Lui si è fermato e poi ha vinto un'elezione promuovendo questo accordo. Quindi dentro il tempo di un anno di cambiare mente e all'improvviso dire che infatti vogliamo non più seguire questo accordo e invece cominciare da nuovo e rompere leggi internazionali, che ormai l'accordo è diventato legge internazionale da quando è stato approvato da Bruxelles e anche da Londra. E quindi dal punto di vista irlandese si ricomincia tutto dall'inizio e tutti i negoziati e gli anni che sono stati spesi su trovando questo accordo adesso sono non sappiamo se alla fine avremo un accordo. Quindi sì, c'è stata tristezza, irritazione, e c'è anche molte persone che non vogliono credere che il governo britannico veramente prenderebbe queste decisioni di rompere internazionale, legge internazionale, perché avevano per anni una reputazione abbastanza alta, anche se la storia fra l'Irlanda e Gran Bretagna non è stato sempre una storia bellissima, come sappiamo, però i due governi hanno lavorato per anni insieme e negli anni recenti avevano avuto una relazione più o meno positiva. Quindi ci sono molte persone, per esempio, nel governo e anche negli uffici pubblici che hanno relazioni positive e lunghe con persone in Londra e hanno lavorato per anni insieme, quindi è un po' c'è anche molta sorpresa loro, dunque sorpresa, sì, amarezza, sì. Ecco, sorpresa che peraltro è condivisa. The Irish Times, il giornale per cui Naomi O'Leary lavora come corrispondente dunque da Bruxelles, un giornale che ha una storia di quasi un secolo e mezzo se non sbaglio e che ha seguito anche proprio tutte le vicende cui Naomi accennava, le complicate e drammatiche vicende di un paese che è un'isola ma con una particolarità in una regione naturalmente settentrionale dell'Ulster, in cui c'è questo confine, un confine con il Regno Unito. Allora la domanda è: quali sono le implicazioni? Ci hai detto chiaramente sullo stupore, sulla sorpresa condivisa di una violazione di un principio semplice, pacta sunt servanda, è uno studio che si fa dalle basi del diritto internazionale e che Boris Johnson su una cosa che, come ci ha ricordato Naomi O'Leary, è stata trattata e definita dallo stesso Boris Johnson, cambia idea. Però vorrei chiederti, esistono delle preoccupazioni, diciamo, specifiche, territoriali? Perché quel confine, appunto, del nord ha vissuto periodi davvero drammatici e aveva raggiunto, credo, una sorta di equilibrio. È così? Sì, esattamente. Quindi c'era questo famoso accordo di Venerdì Santo nel 98 che è stato firmato, è stato un grande successo e più o meno ha funzionato, ha preservato pace ora per più di 20 anni più o meno, però la pace è delicata e il problema è che se il Regno Unito esce dall'Unione Europea, come sta facendo, e l'Irlanda del Nord anche comincia a seguire regole che sono molto diverse all'Unione Europea, vuol dire che per forza deve essere controlli sulla frontiera, il confine. Quindi la domanda è dove sarà questo confine? L'accordo dell'anno scorso ha deciso che il confine, nel senso in cui, dove saranno i controlli, saranno nei porti e gli aeroporti a Irlanda del Nord. E l'Irlanda del Nord, anche se fa parte del Regno Unito, rimanerà più o meno in linea con l'Unione Europea per evitare che saranno controlli sull'isola, sul confine sull'isola. E questo è molto importante perché l'emergenza di controlli sul il confine sull'isola sarebbe una minaccia seria alla pace. Cosa si aspetta Dublino da Bruxelles oggi? Allora, è una situazione molto difficile, però Dublino è 100% rimane in solidarietà con Bruxelles e con gli altri stati membri dell'Unione Europea, perché Dublino vede che il suo potere è più grande dentro l'Unione Europea e con l'appoggio di tutti gli altri stati membri. Quindi rimanerà tutti uniti, rimarranno così, continueranno le discussioni. Non vogliono fare un'uscita drammatica perché quello che ha fatto il governo britannico è visto come una provocazione da Dublino e non vogliono dare soddisfazione al governo britannico di collassare i colloqui. Segnalo un titolo due giorni fa su The Irish Times che ho trovato molto interessante, che dice che ha detto tra l'altro che la sensazione è che il Regno Unito non abbia più, in questo caso specifico, il senso del proprio ruolo anche storico? Allora sì, da quando il voto è stato chiamato e da quando c'era il referendum, gli irlandesi hanno l'impressione che in Inghilterra non hanno dimenticato la storia e non hanno il senso, una percezione di come è serio questa prospettiva per l'Irlanda. È veramente come potrebbe avere un effetto soprattutto su Irlanda del Nord, che ricordiamo non ha votato per Brexit. L'Irlanda del Nord ha votato contro, non ha avuto una maggiorità in favore, però è possibile che avrà le conseguenze più gravi di tutti. Naomi O'Leary, grazie di essere stata con noi, lo ricordo, corrispondente da Bruxelles di The Irish Times. E adesso dal nord-ovest, dalle isole al continente, alla parte orientale del nostro continente, sono tre i paesi dell'Unione che confinano con la Bielorussia, sono Polonia, Lituania e Lettonia. Bielorussia che dal 9 agosto scorso è al centro di una grande protesta popolare che nega la veridicità della comunicazione di governo, secondo la quale il presidente Aleksandr Lukashenko, al potere ininterrottamente dal 1994, avrebbe vinto con l'80% delle preferenze il diritto a governare fino al 2026. Protesta e repressione, coinvolgimento dell'Europa, accuse di Lukashenko all'Europa Occidente, che lo portano giovedì a dichiarare la sua intenzione di chiudere la frontiera di Stato con l'Ovest, innanzitutto con la Lituania e la Polonia. E scontro diplomatico tra Europa e Bielorussia dopo l'approvazione a stragrande maggioranza di una risoluzione dell'Europarlamento che chiede sanzioni contro il presidente Lukashenko e il suo entourage a seguito delle cosiddette elezioni che Bruxelles ha definito in flagrante violazione di tutti gli standard internazionali, elezioni che il Parlamento europeo non riconosce e, condannando la repressione dei manifestanti, annuncia che dal 5 novembre alla scadenza del precedente mandato non considererà più Lukashenko presidente. Da Minsk la reazione con l'accusa di una risoluzione aggressiva da parte dell'Europarlamento. Intanto i ministri degli esteri europei porranno lunedì le basi per le sanzioni contro il regime bielorusso. Sempre il Parlamento europeo ha votato a stragrande maggioranza una risoluzione che condanna l'avvelenamento dell'oppositore russo Navalny con Novichok, puntando esplicitamente il dito contro la Russia di Vladimir Putin. La risoluzione chiede un'indagine internazionale sul caso Navalny e sulle violazioni da parte di Mosca degli obblighi relativi all'utilizzo di armi chimiche. In entrambe le votazioni è stato stupore il voto della Lega di Salvini, che si è opposta all'atto d'accusa contro Putin, prevedibilmente considerate le affinità leghiste con Mosca, e si è addirittura astenuta sulla risoluzione bielorussa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ecco che siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Pietro Lacorte in regia, Alessandro Schirano in assistenza, Gigi Donnelli al microfono, e tutti e tre vi lasciamo agli aggiornamenti con GR24. Ci risentiamo per Europa Europa la prossima settimana. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.